Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. La banda larga è un tema assai dibattuto. Sappiamo che la banda larga, quindi l'accesso ad alta velocità di internet, è una delle chiavi di volta della Smart City, ma più in generale nella società moderna la connettività rappresenta una sorta di amplificatore delle attività economiche e anche delle attività sociali, come sappiamo molto bene. Insomma, quindi aumentare la connettività è un obiettivo ineludibile sia per realizzare le Smart City sia per, come dire, avere un'economia più competitiva, ma in tempi di crisi questo si scontra con la difficoltà, per esempio, di realizzare nuove infrastrutture, nuove ma soprattutto costose. Stasera allora ci domandiamo se c'è modo, almeno in alcune circostanze, di avere più connettività senza bisogno di infrastrutture addizionali. Ne parliamo con Antonio Capone, professore di telecomunicazioni presso il Politecnico di Milano. Buonasera Capone. Buonasera. Allora Capone, premettiamo, diciamolo subito, non è che noi stiamo dicendo che non bisogna fare le infrastrutture, vero? Assolutamente, gli investimenti nelle infrastrutture sono essenziali in un paese in particolare come l'Italia, dove questo ha creato un gap rispetto ad altri paesi, quindi dobbiamo assolutamente trovare il modo di ritornare ad investire. Ecco. Nel frattempo però qualcosina si può comunque continuare a fare nella società. Ecco, soprattutto perché siamo di fronte a un paese molto spaccato da questo punto di vista, cioè abbiamo situazioni in cui c'è una ampia diffusione della banda larga e si potrebbe avere ancora più connettività e situazioni in cui invece internet quasi non arriva e lì c'è poco da fare, lì bisogna fare le infrastrutture. Se però ci concentriamo sul primo caso, ecco, partiamo da una constatazione. Pensiamo al Wi-Fi. 10 anni fa era quasi un termine sconosciuto. Oggi uno, se viaggia con lo smartphone, non c'è quasi luogo, ma nemmeno quando si è sul treno ad alta velocità in mezzo alle campagne, in cui non spunta almeno una rete Wi-Fi. A cui, se si avesse la password, sì, si potrebbe in qualche modo connettere. E quindi noi partiamo un po' da questo dato, da questa ampissima diffusione del Wi-Fi, a fare proprio il nostro ragionamento. Allora, modalità per aumentare la connettività senza necessariamente aumentare le infrastrutture di rete. Una di queste è il cosiddetto Wi-Fi offloading. Che cosa vuol dire? Si tratta di tentare di mescolare insieme quello che è il mondo delle reti Wi-Fi e quello che è il mondo delle reti cellulari che offrono servizi di dati, cercando di consentire a chi ha un abbonamento di un operatore radiomobile, quindi un operatore cellulare, di poter spostare la sua connessione verso il mondo Wi-Fi quando c'è una rete Wi-Fi disponibile che abbia stretto un accordo di cooperazione con l'operatore telefonico. Questo è un vantaggio perché chiaramente per l'operatore significa spostare il traffico su un'altra rete già disponibile o comunque che si può costruire con costi più contenuti e quindi aumenta la disponibilità di connettività e la disponibilità di banda. Quindi anche la qualità del servizio per l'utente che riceve questo servizio. Assolutamente, quindi questo in realtà si traduce in maggiori servizi, maggiore connettività e si spera anche un pochino di minori costi perché chiaramente per l'operatore significa non dover investire immediatamente nelle nuove tecnologie, nelle nuove infrastrutture che ovviamente ha bisogno di tempo per poter essere... Per mettere in piedi. Ecco, concretamente facciamo un esempio. Uno entra in un aeroporto con uno smartphone. In questo aeroporto c'è una rete Wi-Fi che ha fatto un accordo con l'operatore a cui, diciamo, è abbonato la nostra cavia. Che cosa succede? Tramite una piccola applicazione che c'è nello smartphone è possibile che il terminale si accorga della presenza della rete Wi-Fi che è associata all'operatore e quindi possa spostare il traffico dalla rete cellulare verso la rete Wi-Fi dell'aeroporto e qui questo avviene senza che l'utente se ne accorga e senza che la comunicazione dei dati in corso venga interrotta. Ecco, un'altra possibilità, io la trovo particolarmente affascinante, è quella della federazione di reti Wi-Fi. Di che cosa si tratta? Si tratta di cercare di far condividere agli utenti la loro connessione Wi-Fi. Questo è possibile tramite la condivisione dell'infrastruttura, quindi dell'access point disponibile, nata come condivisione delle connessioni Wi-Fi domestiche, ma si può estendere verso delle realtà più grandi, come possono essere le realtà cittadine. Ecco, era un'idea che era nata dal basso. In pratica ognuno di noi, ormai molte persone hanno a casa un Wi-Fi, sacrificano un pezzettino di banda, lo rendono disponibile a persone che passano sotto la finestra di casa, e in cambio, quando loro, come dire, passano sotto la finestra di un altro signore che ha aderito a sua volta, riescono a collegarsi in wifi. Questa cosa però, insomma, era un po' difficile da fare, perché poi uno si tiene il ripetitore dove capita in casa, non è affatto detto che funzioni tutto così facilmente. Invece adesso sta assumendo una dimensione un po' diversa. Facciamo un esempio, prendiamo una piazza dove magari ci sono un po' di negozi, no? Esatto, in questo caso qui può essere che il comune decida di investire in una piccola infrastruttura wifi comunale con un po' di access point, ma che questa infrastruttura possa essere federata a iniziative di tipo privato. Anche il gestore del bar che ha un po' di tavolini fuori in piazza e vuol fornire un servizio di copertura agli utenti che passano nel suo esercizio commerciale può creare una infrastruttura wifi, federarla a quella del comune o di un operatore che ha creato il servizio, e l'utente è in grado di usufruire di queste reti come se fosse un'unica rete, ancora una volta con un meccanismo automatico che sceglie il segnale migliore e fa associare all'utente il segnale migliore. Per di più, questo si può fare avendo un canale di comunicazione attraverso il quale è possibile veicolare informazioni sul luogo, sugli esercizi commerciali, sulla città, in maniera più diretta, cosa che non si può fare con altri canali di comunicazione. Ecco, lei tra l'altro è impegnato direttamente in un progetto che riguarda Milano di questo tipo. Sì, il Comune di Milano ha deciso di sfruttare l'idea di federazione proprio per allargare in maniera significativa la copertura wifi della città, e tramite uno spin-off del Politecnico di Milano c'è in corso un'attività che consente di federare una serie di realtà di wifi a livello del territorio milanese proprio per consentire l'accesso al servizio con un unico identificativo, un'unica credenziale di accesso alle varie reti. Aderire a queste iniziative è particolarmente complicato dal punto di vista normativo, ci sono insomma valanghe di carte da riempire, com'è la situazione? Perché questo purtroppo spesso accade in Italia. Per fortuna recentemente la normativa in Italia è stata semplificata, quindi adesso questo tipo di complicazioni non ci sono più, sono accettabili. Non siamo a livello di paesi in cui tutto è libero e tutto è facilmente accessibile, però sicuramente si tratta di complicazioni ragionevoli che chiunque può affrontare con costi assolutamente contenuti. Grazie Antonio Capone. Grazie a lei, salve. Per stasera ci fermiamo qui, l'appuntamento è per domani, buona serata.